Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Indagine su un neodeputato siciliano. Si sospetta un maxi riciclaggio. È il figlio di Francantonio Genovese, ucciso a Milano mentre portava a passeggio il cane. È sabato, la giornata contro la violenza sulle donne. Hotel Rigopiano, 23 avvisi di garanzia per la strage di gennaio. Tra gli indagati, l'ex prefetto di Pescara. 15 milioni di persone vivono in zone degradate. Il dato emerge dal rapporto della Commissione Periferie. Champions, pari, Juve sconfitta Roma, costringono le due squadre ad aspettare l'ultima partita del girone. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è la pagina Facebook di Radio 24, quella di Effetto Giorno. Pagine dalle quali andiamo in diretta video, e se volete dunque ci potete anche vedere e commentare là. Dall'altra parte del vetro, Laura Faggin in assistenza in redazione, alle prese con una giornata complicata e di difficile reperimento di ospiti, Filippo Aureggi in regia. Iniziamo dunque, e iniziamo dall'indagine sul neodeputato siciliano Genovese. Indagato per riciclaggio Luigi Genovese, 21 anni, recordman di preferenze alle ultime regionali siciliane, neoeletto con Forza Italia, figlio dell'ex deputato Francantonio, condannato a 11 anni per corruzione. È il quarto neodeputato dell'Assemblea regionale siciliana a finire inquisito. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Messina, Maurizio De Lucia, ed è a carico dell'intera famiglia genovese, padre, figlio, madre e altri familiari, a cui sono stati sequestrati complessivamente 100 milioni di euro in società di capitali, conti correnti, beni mobili e immobili e azioni. Il 21enne avrebbe avuto un ruolo determinante nelle operazioni societarie fatte dal padre Francantonio, pure lui indagato, per riciclare complessivamente circa 30 milioni di euro. I reati ipotizzati a carico dei due e di altri familiari sono riciclaggio ed evasione fiscale. Le indagini hanno consentito di trovare fondi esteri per un ammontare pari a oltre 16 milioni di euro, schermati da una polizza accesa attraverso un conto svizzero presso la società Credit Suisse Bermuda. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora veniamo alla cronaca con l'omicidio di una donna a Milano. È un'italiana, Marilena Negri, di 67 anni, la donna ferita gravemente stamani all'interno del parco di Villa Litta nel quartiere Affori a Milano. A trovarla agonizzante e a dare l'allarme è stato un passante attorno alle 7:20. Quando i paramedici del 118 sono arrivati sul posto, la donna era ancora viva, ma nonostante diversi tentativi per rianimarla è morta. Fatale, una profonda ferita alla gola. Sul corpo anche altri segni di traumi. Prima di morire, la donna potrebbe aver fornito ai soccorritori elementi utili all'inchiesta. Ora indagano per omicidio gli investigatori della squadra mobile di Milano. La donna è morta a pochi metri da una telecamera del comune in un crocevia molto illuminato e la polizia ne ha già acquisito le immagini. Era una persona che conduceva una vita normale, limpida, molto curata, ma non appariscente, ha detto una sua conoscente alla polizia. Marilena Negri abitava da sola in zona, era vedova e aveva due figli. 12 anni fa aveva perso il marito, un ciclista amatoriale travolto da un'auto a Monza mentre correva in un gruppo. Una dei due figli abita con il compagno in un appartamento nello stesso palazzo della 67enne che stamani era uscita presto per portare fuori la sua cagnolina. La donna indossava dei leggings neri, una minigonna grigia, un cappotto e pare anche una parrucca. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sabato, come già vi dicevamo nei titoli, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, mobilitazione in tutto il paese per un fenomeno che i dati registrano purtroppo in aumento. In 10 mesi, nel 2017, 114 donne sono state vittime di omicidio volontario per mano di un uomo. Lo registra il quarto rapporto di Eures, riferendo di un aumento negli ultimi anni del 5,6%, soprattutto a causa di una forte crescita del fenomeno nelle regioni del nord e del centro Italia. 25 vittime in Lombardia, 17 in Veneto, terza la Campania. La presidente della Camera Boldrini. I dati sono insopportabili. È insopportabile sapere che ogni 2 giorni e mezzo nel nostro paese una donna viene uccisa. Italiano tra i 30 e i 50 anni, una volta su due marito della vittima. È il profilo del femminicida che emerge da un monitoraggio fatto dal Ministero della Giustizia sulla base dell'esame di 417 sentenze. Nel 2018 il Fondo di Solidarietà per le Vittime di Femminicidio sarà aumentato ed avrà un importo pari a 7,4 milioni. L'annuncio della senatrice PD Francesca Puglisi, presidente della Commissione parlamentare contro il femminicidio. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La tragedia dell'hotel Rigopiano, arrivano avvisi di garanzia in un altro filone di inchiesta. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, dopo i vertici dell'albergo, del comune e della provincia, ora tocca tutto il resto della catena di chi aveva il compito di coordinare e gestire i soccorsi, che non furono invece né veloci né efficaci secondo gli inquirenti e contribuirono alla morte di 29 persone. A queste conclusioni arriva la Procura di Pescara, che emette altri 23 avvisi di garanzia per la valanga del Rigopiano, che lo scorso 18 gennaio travolse il resort di Farindola con i suoi ospiti rimasti imprigionati. A finire nel registro degli indagati anche l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, il delegato delle opere pubbliche, il responsabile della viabilità provinciale, il geometra del comune e altri tecnici. Contro di loro innanzitutto le numerose richieste di chi sollecitava già ore prima interventi per pulire la strada provinciale, la mancanza di un adeguato piano antivalanghe e poi la concitata telefonata del professore amico del cuoco sopravvissuto, che per primo denunciò cosa fosse successo lassù al Rigopiano. Ma la sua segnalazione forse fu confusa con altre arrivate in quelle ore per segnalare criticità e non si capì subito davvero la drammaticità di quanto successo. Quando i soccorsi poi finalmente arrivarono, alcuni furono estratti vivi, si sperò di poterli salvare tutti, ma quando con grandissima difficoltà i vigili del fuoco riuscirono a raggiungere la hall dell'hotel, trovarono i corpi senza vita di 29 persone che erano lì con le valigie, pronti a partire non appena la strada fosse stata liberata e che invece furono travolti dalla valanga. Grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento e anche per averci riportato a quei momenti drammatici che abbiamo raccontato anche qua dai microfoni di Radio 24. Restiamo sulla cronaca, sono state arrestate le maestre per maltrattamenti in Piemonte. Sberle, strattoni, trascinamenti per terra, ma anche urla, punizioni ed umiliazioni. Tre maestre di asilo sono state arrestate, ora si trovano ai domiciliari a Vercelli. Sono accusate di maltrattamenti fisici ma anche psicologici nei confronti di bambini tra i 3 e i 5 anni. L'operazione, tutti giù per terra, è cominciata lo scorso maggio con la denuncia di una madre, Sergio Papulino, della squadra mobile. Una, possiamo definire, madre coraggiosa che a maggio si è presentata presso i nostri uffici per sporgere una denuncia, in quanto aveva constatato, quando era andata a prendere il proprio figlio, che aveva potuto vedere una maestra che tirava per i capelli un bambino. La maestra in quel momento non si accorta di essere notata e quindi ha iniziato a raccogliere anche informazioni da altri genitori. Dopo la denuncia, nell'asilo sono state installate le telecamere che hanno portato ad accertare almeno 52 episodi di maltrattamenti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo all'estero, all'incontro ieri tra russi, iraniani e turchi per parlare di Siria, un momento centrale in questa guerra che sta sostanzialmente finendo, ma con ancora molte forze sul campo. L'analisi è di Alberto Negri. Non c'è dubbio alcuno che Putin sia il vero regista del dopoguerra in Siria dopo aver deciso il conflitto scendendo in campo a fianco di Bashar Assad nel 2015. Il lunedì il presidente siriano era salito a Sochi, capitale diplomatica dei russi sul Mar Nero, e mercoledì Putin ha organizzato un vertice trilaterale con il leader turco Erdogan e l'iraniano Hassan Rouhani. La Turchia è stato il tassello chiave della strategia russa. Erdogan ha cambiato fronte, voltato le spalle alla NATO e soprattutto le monarchie arabe che volevano abbattere il regime di Damasco. Ma con il presidente russo parlano tutti. Dopo aver visto Assad, Putin ha telefonato a Trump, all'egiziano al-Sisi, al premier israeliano Netanyahu e al re saudita Salman. Vincitori e vinti si rivolgono tutti a lui come un grande mediatore per la spartizione in zone di influenza. Ma qual è la situazione reale? La Siria è un affollato condominio militare. Sul campo ci sono soldati russi, americani, mentre la Turchia occupa una fascia del nord e Israele continua a dominare il Golan conquistato nel 1967. Gli iraniani poi hanno rafforzato l'asse sciita fra Teheran, Baghdad, Damasco e gli Hezbollah libanesi. Oltre alle truppe lealiste di Assad ci sono milizie curde, siriane, sciite e anche i consiglieri militari di Teheran. I veri esclusi sono gli arabi delle monarchie del Golfo, Arabia Saudita in testa, che ha subito un'altra cocente sconfitta nella guerra per procura contro l'Iran, alleato di ferro di Assad. Per evitare un altro conflitto, USA e Russia dovranno tenere a bada i loro ribollenti alleati nella regione, mentre la Russia cercherà di accontentare tutti. La verità è che Mosca ha riempito il vuoto militare, strategico e di idee lasciato dagli Stati Uniti. Speranza ridotta al minimo per il sottomarino scomparso. Dovete fare in fretta, dovete muovervi, non potete giocare con la vita di mio fratello, della gente che è qui, dei nostri cari. Elena è la sorella di Christian Ibáñez, un ufficiale radarista che si trova con altri 43 militari all'interno del sottomarino disperso da una settimana nell'Atlantico del Sud. Sono tanti familiari che da giorni vivono nella base navale militare a Mar della Plata, dove avrebbe dovuto arrivare il sottomarino scomparso. Per loro l'ultima notizia diffusa dalla Marina Argentina, ovvero che sarebbe stato udito un rumore forse proveniente dal sottomarino, non è solo un indizio, ma un appiglio per tenere viva la speranza. In base a questa nuova informazione si sta procedendo a un nuovo monitoraggio dell'area dalla quale proverrebbe il rumore. Anche la Russia di Putin ha offerto al presidente argentino Macri una nave oceanografica ad alta tecnologia. Fonti ufficiose però non confermate indicano quel rumore come un'esplosione. Intanto le ore passano e la speranza si affievolisce. Il sottomarino dovrebbe avere abbastanza ossigeno per far sopravvivere il suo equipaggio sotto il mare per 7 giorni dal suo ultimo contatto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di lobby. Bisogna approvare una legge per avere più trasparenza, propone il ministro della giustizia Andrea Orlando, che rilancia anche l'appello del titolare degli interni Minniti per un patto dei partiti per rifiutare il voto delle mafie. Oggi pomeriggio a Milano inizierà 2 giorni degli stati generali della lotta alle mafie. Sentiamo il guardasigilli intervistato da Raffaella Calandra per Storiacce. Cioè, se tutti i soggetti della politica e della società dicono con chiarezza: con questi signori non vogliamo avere niente a che fare, io credo che si possano ridurre gli spazi e si può far emergere anche con più evidenza la responsabilità di chi invece non si attiene a questa condotta. Dopodiché credo che noi un segnale chiaro dal punto di vista normativo lo abbiamo dato quando abbiamo pressoché raddoppiato la pena per il reato di scambio di voto di scambio politico mafioso. E penso che, io non sono mai in generale convinto del fatto che l'aumento di pena possa avere di per sé una deterrenza, però in questo caso aveva una valenza anche di carattere simbolico. In sostanza, chi si candida a svolgere funzioni di rappresentanza dei cittadini e poi costruisce il suo consenso in questo modo, tradisce la fiducia dei cittadini e inquina il circuito democratico. Credo che ci voglia molta nettezza e noi con quella modifica normativa l'abbiamo interpretata. Presentato il rapporto sulle periferie, 15 milioni di italiani vivono in aree sottoposte o a rischio degrado. Il piano periferie avanza e passa alla fase 2 con la firma oggi a Viterbo da parte del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni della convenzione con il comune, con cui vengono stanziati 22 milioni per un progetto di riqualificazione urbana della zona del Poggino. Gentiloni ha sottolineato che comincia la fase che vedrà nuovi accordi con quasi 100 città, progetti già finanziati. Almeno 15 milioni di persone vivono in zone degradate. Da Genova a Milano a Palermo a Napoli cresce il racket delle case popolari occupate da abusivi fino al 100%. Questo il rapporto sulle periferie della Commissione parlamentare d'inchiesta, che evidenzia che servono ancora almeno 25 miliardi per rendere stabile il finanziamento. L'Italia infatti ha bisogno di un piano Marshall delle periferie, come sottolinea Andrea Causin, presidente della Commissione. Per Marshall vuol dire un investimento di lungo periodo, vuol dire una scelta politica di mettere una quantità ingente di denaro pubblico, vuol dire soprattutto individuare delle aree prioritarie di intervento, delle aree tematiche prioritarie di intervento. I lavori proseguiranno nella prossima legislatura, come annunciato in un convegno a Montecitorio oggi il vicepresidente della Camera, Marina Sereni. Non è il tema della prossima campagna elettorale, è un lavoro che chiunque lo farà lo dovrà continuare anche nella prossima legislatura e oltre. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere questa prima parte della trasmissione andiamo al calcio con la Champions League di ieri, soprattutto al centro dell'attenzione, riflettori puntati su Juve e Roma. Dario Ricci, che a questo punto per la certezza della qualificazione devono aspettare ovviamente l'ultimo turno del girone, no? Sì, insomma, speravamo di toglierci il dente prima, c'era la possibilità, più difficile per la Juventus, perché battere il Barcellona, che pure è venuto a Torino in pieno relax, non è mai facile, tant'è che Messi ha giocato appena una mezz'oretta e in quella mezz'oretta già ci ha fatto venire i brividi, perché comunque come sta giocando adesso nel nuovo Barcellona disegnato da Valverde è ancora più stuzzicante, un po' da rifinitore, ma poi lui può fare quello che vuole col pallone. Un pochino più facile era per la Roma, nel senso che l'Atletico Madrid è un'altra big d'Europa, ma quest'anno soprattutto in Champions non aveva mai trovato il ritmo giusto, e invece verdetti rinviati all'ultima giornata. Però almeno, Simone, diciamo che le due italiane saranno padrone del loro destino. Per la Juventus addirittura la qualificazione potrebbe arrivare anche in caso di una sconfitta ad Atene con l'Olympiacos, se lo Sporting venisse battuto al Camp Nou dal Barcellona. Alla Roma è addirittura sufficiente battere in casa i modesti azzeri del Karabakh, che pure hanno fatto soffrire l'Atletico Madrid, quindi meglio prenderli sempre con le pinze. Però insomma, due squadre che hanno il loro destino nelle mani, e quindi... In tutta teoria ce la dovrebbero fare. Sì, poi no, io dopo Svezia, dopo Italia-Svezia e San Siro sono rimasto scioccato. Questa frase no. Non la diciamo. Mi dissocio. Allora, Dario Ricci si dissocia e vedremo che cosa dirà effettivamente il campo. Grazie al nostro Dario Ricci per questo aggiornamento sulla Champions, tema che tornerà ovviamente a partire dalle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi ci ritroviamo e tra gli argomenti torneremo sul tema della violenza contro le donne, perché ieri si è svolta l'udienza di un processo, del processo contro una persona, una persona arrestata, un uomo arrestato per aver dato fuoco alla sua fidanzata. Ci sono addirittura delle immagini, dei video che lo ritraggono mentre riempie la bottiglia di benzina. Solamente che lei ha deciso di perdonarlo e di ritirare tutte le accuse in fase di processo. Ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, e sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta video, e se volete potete scriverci anche là. Ci chiede tra l'altro chi è un ascoltatore proprio su Facebook, Alfonso, che forse non l'abbiamo chiarito bene, di che corrente politica sono gli arrestati in Sicilia. Non sono arrestati innanzitutto, ma indagati, è un indagato ed è di Forza Italia, il figlio di Francantonio Genovese, lo abbiamo raccontato, di questo abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, così come abbiamo parlato della donna uccisa a Milano mentre portava a passeggio il cane, abbiamo parlato di Siria, dell'incontro di ieri tra Putin, Erdogan e gli iraniani, delle periferie e dei dati che sono arrivati dalla commissione d'inchiesta parlamentare, e di Champions League infine. Adesso torniamo ad occuparci di violenza contro le donne. La vicenda risale al 19 gennaio del, o meglio al gennaio, a metà gennaio del 2017, ed è una vicenda che arriva da Messina, dove una ragazza, Ilenia, ad una ragazza Ilenia viene dato letteralmente fuoco, viene cosparsa di benzina e le viene dato fuoco. Nell'immediatezza, subito dopo che sopraggiungono i soccorsi, nel momento nel quale sopraggiungono i soccorsi, lei dice è stato Alessio, che è il nome del suo fidanzato. Dopodiché da quel momento ritratta tutto, forse lo ricorderete, è apparsa anche a Mattino 5 in qualche trasmissione televisiva per raccontare esattamente questo. Ebbene, ieri un nuovo passaggio per questa ragazza di 23 anni che porta i segni delle ustioni sul corpo e ha perso un bambino al quinto mese proprio per questi fatti, un nuovo passaggio giudiziario di questa vicenda che ha consentito di fatto a quella persona, che possiamo considerare ancora il suo fidanzato a tutti gli effetti, di andare agli arresti domiciliari. Noi siamo in linea con Roberto Bonavita, che è l'avvocato della madre Ilenia, che si è costituita parte civile. Bonavita, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci sono tra l'altro anche delle prove che sono state portate del fatto che il colpevole possa essere lui. Poi chiaramente siamo garantisti fino in fondo, finché non c'è il giudizio, no, quantomeno in primo grado, non possiamo dire la certezza. Sarebbe stato lui, sarebbe stato Alessio, però sono state portate anche delle prove piuttosto convincenti, addirittura un video nel quale lui riempie di benzina una bottiglia. Esatto, secondo noi, parlo ovviamente per conto della mamma, secondo noi è assolutamente univoca diciamo, il comportamento del signor Mantineo, quindi nulla diciamo, toglie ai nostri dubbi per quanto riguarda la ricostruzione che ci è stata fornita dagli investigatori. È chiaro che anche noi siamo garantisti, questo è chiaro, ribadirlo lo ribadisco anche io. Però dal nostro punto di vista c'è poco da dire o da aggiungere su una dinamica che per noi è abbastanza chiara. La dinamica secondo voi è abbastanza chiara e la ragazza però su questo non ci sta e dice che lo ama ancora, addirittura bacia, abbraccia i familiari del fidanzato in aula, no? Sì, questo andrebbe purtroppo valutato direttamente con la ragazza. Effettivamente il comportamento stona con quella che è l'interpretazione nostra e quella degli inquirenti. Probabilmente alla base c'è un rapporto tra i due, voglio essere buono, particolare, ma questo secondo noi non giustifica chiaramente il fine, ecco, quello che è avvenuto. La ragazza è strenuamente, anche ieri in aula, insomma, ha detto la sua, con grande rispetto abbiamo ascoltato, perché era giusto ascoltarla, ma ripeto, per quanto ci riguarda cambia poco sul fatto. Sì, ieri doveva essere il giorno della costituzione di parte civile della stessa Ilenia, fatto che non è avvenuto, mi sembra di aver capito a questo punto. Nella realtà ieri era già una udienza successiva, nell'udienza precedente Ilenia avrebbe potuto, come da codice, costituirsi parte civile, poi all'ultimo momento, non so, insomma, ha deciso di non costituirsi. È vero, sì. E voi come spiegate questo comportamento? Noi lo spieghiamo, questa è una bellissima domanda, nel senso che chiaramente non lo condividiamo, io, questo è chiaro. Probabilmente c'è una spiegazione, paradossalmente, ed è una spiegazione, io personalmente la definisco, ma sottolineo una mia interpretazione, la sindrome di Stoccolma, no? Cioè quasi quasi poi alla fine si tende a difendere il proprio carnefice. Poi però, per carità, sottoscrivo quello che lei ha detto, perché la difesa del ragazzo giustamente e doverosamente si è difesa strenuamente, si difende strenuamente, vedremo insomma poi il giudice a questo punto cosa... Avvocato, ma ci sono altre ipotesi investigative oppure no, in sostanza? Ma le ipotesi investigative ci sono, ci sarebbero e sono portate dalla difesa. Probabilmente l'autore potrebbe essere può essere un'altra persona, però ripeto, è un'interpretazione che giustamente fa la difesa del Mantineo, ma che noi oggi in questo momento non apriamo, non condividiamo, chiaramente. Come procederanno le cose, avvocato? Adesso Mantineo ha avuto gli arresti domiciliari, no? Allora, Mantineo, che mi risulti, ancora non ha avuto i domiciliari, però le direi una bugia perché il processo è stato ieri, quindi non so se nelle more il giudice lo ha scarcerato. Ieri era detenuto, cioè è venuto in aula da detenuto, purtroppo per lui, perché comunque è sempre un ragazzo. Il processo è stato rinviato, se non erro, al 10 gennaio. Il magistrato e qua sono d'accordo con lui, ha nominato un perito affidato l'incarico di chiarire poi gli aspetti della dinamica della vicenda e quindi poi eventualmente di intervistare anche un perito tecnico o uno psicologo? Un medico legale. Per essere chiari, tra l'altro la ragazza ieri è stata sentita perché anche se è finita poi integrata in questo procedimento per favoreggiamento, quindi è una questione abbastanza delicata. E quindi il giudice ha preferito dare questo incarico. Il perito, il medico legale, si è preso 40 giorni di tempo per poi poter insomma definire tutto. Sì, ragazza che dice, lo ha scritto tra l'altro anche su Facebook, forse qualcuno lo ricorderà, fatevi fatti vostri, Alessio lo amo, tra i racconti ci sono appunto lei che racconta di un uomo incappucciato, uno sconosciuto, che le getta della benzina addosso dopo che lei ha aperto a questo incappucciato sconosciuto alle 5 di mattina. C'è una certa incongruenza, però tutto andrà visto, andrà visto poi in giudizio. Grazie per questo racconto all'avvocato Roberto Bonavita e grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo. La vicenda di Sappada, beh, ne abbiamo parlato lungamente a questi microfoni, da questi microfoni ne ha parlato questa mattina anche il nostro Alessandro Milan insieme a Leonardo Manera, insieme a Veronica Gentili, ne hanno parlato col sindaco di Sappada, questo comune che se ne va dal Veneto e passa al Friuli Venezia Giulia. Se ne va perché è arrivato ieri il voto finale che fa sì che Sappada possa lasciare il Veneto per la regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Siamo in provincia di Belluno, ma in realtà non finisce qua, non finisce qua, perché la provincia di Belluno ha già annunciato ricorso. Dice, ho parlato, il presidente dice, ho parlato con qualche costituzionalista, state attenti perché potremmo tenerci Sappada. Una vicenda che dura da 10 anni e che gli abitanti di Sappada evidentemente non riescono a risolvere fino in fondo. Ci sentiamo tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. E i nostri titoli: indagine su un neodeputato siciliano, si sospetta il maxi riciclaggio, e il figlio di Francantonio Genovese, uccisa a Milano mentre portava a passeggio il cane. Oggi giornata contro la violenza sulle donne. Hotel Rigopiano, 23 avvisi di garanzia per la strage di gennaio, tra gli indagati l'ex prefetto di Pescara. 15 milioni di persone vivono in zone degradate, il dato emerge dal rapporto della Commissione Periferie. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro Giro d'Italia ci porta di nuovo a Sappada, il comune veneto che è passato al Friuli. Ieri c'è stato il voto definitivo alla Camera, ve l'abbiamo raccontato, ve l'ha raccontato questa mattina, ve l'abbiamo raccontato nei GR e poi ve l'ha raccontato anche questa mattina i Funamboli con lo stesso sindaco di Sappada. In realtà si è detto è finita dopo una trafila durata una decina di anni. In realtà pare che non sia finita per niente, perché Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, che è linea con noi. Buongiorno Padrin, bentornato. Buongiorno. E sindaco di Longarone, mi sembra aver capito che siate intenzionati a presentare ricorso alla Consulta, alla Corte Costituzionale? No, bisogna precisare che il ricorso lo può presentare la Regione Veneto e noi ad adiuvandum potremo sostenere questa impugnazione della legge, qualora comunque venisse sottoscritta dal Presidente della Repubblica, perché ancora non mi risulta che il Presidente abbia firmato il decreto, quindi siamo in attesa. Ma potrebbe non firmarlo Mattarella, secondo lei? Ma qui ci sono delle situazioni che devono essere verificate dal punto proprio di vista costituzionale. C'è chi dice che per fare questo passaggio ci vuole una legge costituzionale e non una legge ordinaria, cioè vanno verificati questi aspetti tecnico-burocratici e legali che dovranno un po' definire e chiarire un po' la situazione. A quel punto là si deciderà cosa fare, perché ovviamente non è che io sono qui con l'ascia di guerra contro Sappada, assolutamente. Io prendo atto della decisione del Parlamento, che ha rispettato una volontà popolare. Ho sempre detto all'inizio che una volontà popolare espressa 9 anni fa non penso possa coincidere, anzi sono sicuro che non coincide con quella attuale. Dopodiché è chiaro che bisognerebbe fare un altro referendum per dimostrarlo. Lei quello che dice è che ci sarebbe voluto un altro referendum prima che si arrivasse all'approvazione, perché magari in questi 9 anni la volontà popolare è cambiata. Dalle feste che abbiamo visto in piazza ieri a Sappada non sembra, poi magari la maggioranza è rimasta a casa. Io questo non lo so, io ho raccolto 210 firme che mi ha consegnato un ex sindaco di Sappada che era Massimiliano Pachner e lui mi diceva che la situazione è cambiata, però è chiaro che dovrebbe essere dimostrata, ma al di là di questo aspetto che secondo me è comunque secondario, io prendo atto di questa decisione che però... Ma ci sono secondo lei gli estremi per un ricorso alla, alla consulta alla Corte Costituzionale? Perché mi sembra di capire, ho letto da qualche parte, che lei ha fatto un'intervista dicendo con qualche costituzionalista ho parlato e le possibilità ci sarebbero. Sì, io questi, da quanto il mio legale ha detto, ci sono. Ma è chiaro che è un percorso che va verificato, ma al di là di questo aspetto io volevo sottolineare, l'ho sempre detto, che il Parlamento secondo me non ha guardato con attenzione alle ricadute che questa decisione può prendere, perché è un pericolosissimo precedente che porterà diversi altri comuni che hanno già avuto dei referendum sui propri territori con esito positivo ora a chiedere, quindi un effetto domino che è pericolosissimo, ma penso non solo per la disgregazione della nostra provincia, ma per l'intero sistema paese Italia, quindi a questo punto va presa una decisione molto chiara su dove si vuole andare. Sì, diciamo che il problema è particolarmente sentito nella vostra provincia. Nella vostra provincia quanti comuni ci sono che hanno votato per sganciarsi dal Veneto? Mi pare altri 5-6, se non sbaglio. 5-6 comuni addirittura potrebbero lasciare a questo punto la provincia di Belluno. È vero che potreste essere confortati, Padrin, dal fatto che il procedimento di Sappada è stato molto lungo oggettivamente, no? Sì, questo è vero, sono passati 9 anni, però adesso sì, tutti sono legittimati a dire bene, il Parlamento ha deciso per Sappada, adesso decidi anche per noi. Poi bisogna anche guardare che ci deve essere il placet di entrambe le regioni, cioè dalla regione da cui tu parti e quella che ti dovrebbe accogliere. Sì. Anche in questo caso mi pare che la regione Veneto un placet da una delibera di consiglio regionale non sia arrivato, però ripeto, sono cavilli. Io vorrei invece riportare l'attenzione al di là dell'aspetto Sappada, perché c'è anche una parte di bicchiere mezzo pieno, ovvero finalmente, e qua forse Sappada, bisogna dirgli anche grazie sotto alcuni punti di vista, ha permesso di riportare all'attenzione questo problema di questo disagio della montagna bellunese, che è stretta tra due regioni a statuto speciale, che vive una situazione di concorrenza sleale, passatemi questo termine che forse è forte, ma dobbiamo veramente guardare adesso con attenzione ai problemi della montagna. Noi abbiamo fatto un referendum popolare il 22 di ottobre insieme alla Regione Veneto proprio per l'autonomia della provincia di Belluno. E quindi questo percorso noi adesso andremo a intraprendere con forza e con determinazione. Sì, me lo ricordo, noi ci eravamo sentiti esattamente per questo, esatto, no? L'ultima volta avevamo raccontato questo caso particolare del referendum nel referendum, cioè mentre il Veneto votava per l'autonomia, la provincia di Belluno votava per l'autonomia della provincia di Belluno. Sì, questo nostro, adesso abbiamo già iniziato questo nostro percorso, che non vuole, ripeto, fare alla Catalogna, diciamo così, all'isolamento della provincia. No, ma noi vogliamo il governo del nostro territorio attraverso delle risorse aggiuntive e delle funzioni aggiuntive, perché è un territorio che vive un disagio di spopolamento che dobbiamo cercare adesso di bloccare. Allora io dico che Sappada potrebbe essere, qualcuno lo potrebbe interpretare come il chiavistello per dire bene, guardate che se andiamo avanti così la provincia di Belluno si disgrega. Sì. Il territorio perde la propria forza e soprattutto noi andiamo veramente il rischio all'estinzione. Dice, mi scrive un ascoltatore, prego. Padrin, una battuta che non è male, scrive su WhatsApp, che il Veneto forse è affetto da sindrome bipolare, vogliono l'autonomia ma non consentono autonomie, che sarebbe quella di Sappada, nel senso che appunto se si va a ricorso chiaramente è un segnale anche da un'amministrazione come quella di Luca Zaia, che è un'amministrazione leghista, molto legata al tema dell'autonomia e alle scelte popolari in questo senso, che insomma potrebbe risultare un po' dissonante dal punto di vista politico. Si vede, però noi ci troviamo a giudicare un referendum che si è avuto 9 anni fa, le condizioni erano completamente diverse da queste, cioè è difficile riuscire veramente, cioè la questione temporale non è di poco conto, cioè adesso i sappadini andrebbero ancora a fare referendum, questa una domanda che pongo, una questione, non è che io dico che non si ripeto. Beh, il rispetto della volontà popolare arriva prima di tutto. Dipende da quali ponti d'oro gli fa la Serracchiani, diciamo così, quello poi incide sul voto per il referendum. No, non è un mercato questo, quindi... non possiamo pensare di andare avanti così. Noi dobbiamo veramente dare delle regole e soprattutto guardare con attenzione alla nostra montagna, al disagio che abbiamo, perché è un disagio chiaro, non è contestabile quello che ci troviamo di fronte a una provincia di Bolzano che si trattiene i 9 decimi delle proprie tasse, la provincia della regione autonoma del Friuli 6 decimi, noi niente, e quindi è chiaro che siamo portati a chiedere di andare dove si sta. La tendenza centrifuga è evidente da questo punto. No, è chiaro, questo è comprensibile, ed è un ragionamento che così prendiamo, mettiamo da parte, sul quale avremo sicuramente modo di tornare. La ringrazio, Padrin, devo chiudere. Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, per essere stato con noi. Qualcuno ci chiede, e ce lo chiedete ogni volta, le province non sono state abolite. No, le province non sono state abolite, perché sarebbero state abolite se fosse passata la riforma costituzionale. Invece sono state solo parzialmente svuotate di competenze dalla riforma Delrio. Quindi sì, le province esistono ancora. Speriamo che sia una volta per tutte, cioè che lo diciamo, non che rimangono in vita. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.